dalla spiaggia. Sulle nobbe mani Fidelis, capitolo quindicesimo. Da costruito un beato mio, che ha ottenuto la voce inaccessibile e inutile, e contemplano nella sua luce nobile, prepara le tue orecchie ad ascoltare la parola eterna, senza la quale ogni lingua è muta. Eccita il tuo gusto perché tu possa sentire il sapore del cuore dei gatti, per amarlo. Aspira la suavissima fragranza di quell'incontrabile ciglio del paradiso, raffina la tua tenerezza perché tu possa inebriarti dei baci e degli amplessi del tuo dolcissimo sposo, perché egli è quella umana riceve l'esistenza tutto ciò che esiste, dal quale proviene tutto ciò che è buono. Anzi, egli solo è il buono, egli solo è l'unico vero bene. Innanzi a te lui, contempla, e ti ruba la parola della meditazione delle sue perfezioni, rivolgendo questa preghiera: Gesù, tu regno è Dio, mio Re, mio Padre, mia forza, mia gloria, mia potenza, vita mia, dolcezza mia adorabile, Dio ultimo e massimo, onnipotente, misericordioso e giusto, nascosto, eppure presente, bellissimo e finissimo, stabile. Thank you.